Sentire bene. Stanno a controllo il radio, ma bene, radio 5 è chiara. Fa un passaggio più lungo. Guarda, senza processore sono, Qua mi arrivi bene, fondo e scala alla radio 5. Cosa stai usando? Se preso le sì. Via, con l'SB. Guarda col processore cosa succede. Aspetta un attimo. Adesso c'è il processore inserito. No, troppo rumore distorto. Aspetta, mi passo il macchinino. Macchinino a 3, cosa mi dici? Troppo rumore distorto a fondo. Addirittura. A 1? Lo stesso, beh, che fa una gaffettina, certo. Ah, perché si sente la ventola? Sì. Era meglio prima. Allora, era meglio prima, allora. Così? Sai? Così è come prima, senza processore. E così va bene. Prima troppo rumore sottofondo ti posti. Fammi una registrazione, Emanuele, che ho messo una capsula di citofono in questo microfono. Aspetta tanto adesso. Tutti morti oggi, tutti morti. Non siamo morti, siamo in oggi. Che barrado! Allora, sto guardando la TV. Dammi controllo anche tu, là. Senza processore, perché col processore mi ha detto Emanuele che si sentono troppi rumori di fondo. E oggi vuoi attaccare ancora un processore, fortissimo. Non intendi? Che processore devi attaccare? Va bene così com'è. Allora. Guarda, se così è a 1, macchinini, aspetta, è attaccato col processore. Così c'è il processore inserito. No, troppo. Stacca il processore e aumenta il macchinini, te lo dico io quando basta. Allora, aspetta. No, fermo. Stacco il processore, entro nel menu. A 4. Aspetta. Aspetta, 7 a 2. Macchinini a 2. Aumenta da giusto, non abbasciano. Macchinini a 4. Aumenta. No, devo direttamente a 7, dopo. Allora è troppo vicino, come fa a darti i controlli? Schermo lascia a 7, tanto guarda, a 7, a 10, non credo che cambi molto. Lascia così, buono, tutta manetta, già va bene. SB, con quella capsula. Ottima radio, bella corposa, bella. Certo, manca uno, si può attaccare il processore addirittura, bubù. Col circuito preamplificato, anch'io quando ho provato l'MB più 5, col K dovevo staccare il processore, col processore era a punta di gasino. Vediamo un po', lei mi sono riascoltato che mi ha mandato il video, Emanuele, bello, cazzo la radio, Emanuele, si è fuggito. Aspetta. Vai a Santo Giovanni. La mia voce ha questo problema, non sa cosa vuol dire. Non è chiesto. E non è chiesto, cappa. Sto facendo la domanda di aggravamento. C'è poi il bonus diabete, anche mancomari. Passata la pensione. La sto facendo perché adesso ci sto mettendo in mezzo il diabete. Siccome vogliono adesso la documentazione dal centro diabetici, la relazione, dai, capito? Cos'è che vai? Dimmi, stavi dicendo? KK Roger. Ah, KK Roger, va bene. Mi ha mandato le faccine sorridenti, quindi. Va bene. Se verrai attaccato a voi, con lo scotch. Se non ventra a Drento, è enorme. No, l'ho provato a togliere ieri, non fa. non fa, poi te ne cade tutta una specie di sabbiolina che ha dentro, qua è un casino, fatti una zagiompa. Vabbè, così mi, poi se mi capita di venderlo le rimetto la sua capsula originale. E mi ha detto che non va bene con la sua originale, caspita, buh, esce basso di modulazione. Ma capsula dici minoretti, verdi, marroni, qualcosa del genere da mettere dentro invece di quella, invece buoniti di capsule così mani. Boh, a me non è manco una dici. Quelle che mettiamo, che mettono, io non le metto, io ho le originali, le MB più 5. Adesso questa è più 3. Però quelle capsule ci voglio, ho capito, quelle piccoline. Sì, già ce le ho, aspettami che le cerco. La giudio 3. Devono essere nell'armadietta, aspetta. Che volevo provare da ieri quelle, mi sono messo a cercarle qua ma non ho già avuto. Aspetta, No, però una di quelle devi metterle, perché ormai la sua è esaurita, non serve più. Le metti una di quelle che ci sta dentro e sono sicuro che il microfono va bene. Lo chiudi bene e te lo usi così, quando lo vendi così, a posto, cosa sai in chi è un chitonato isolante. Cinco. Natalino. Ciao Cinco. Ecco Natalino. Beh. Una l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo fare l'altra. Cosa sarebbe? L'ernia mi devo fare, mi ci stavo nera, mi stavo cedendo in macchina, con un amico che mi dice da l'ernia inguinale. Dimmi tu, allora mi devo fare puruvizza. Adesso telefono al dottore, gli dico di farmi l'impegnativo così mi faccio operare, se la biglia in gomma di vostra mano, non ne posso più di stare così. Lui, lascia perdere che io sono dal 17 mi sono operato e all'Avvenna, non a Sassare, all'Avvenna mi sono operato e sono in punta ancora, un po' di dolore ce l'ho, però già sto bene adesso, meglio di prima. Sì, anche io sarò un 2 mesi operato, dai, sto bene, adesso mi stavo riprendendo e mi faccio fare l'altra. L'altra è una cavolata a farmi l'altra. Ehi. Cazzo, non lo so, tu mi fai prendere gli impegni, chiedere, fare, dire e poi non mi rispondi ai messaggi. Non ne ho visto, no, l'ho coricato fino a poco fa e non ho visto nulla. Io così, se deve definire, definisci direttamente con lui, non lo so. Se la bisogna vendi. Sì, ok, dai, già ti telefono dopo. Mia mamma mia. Guarda che messaggi, basta, dai. Poi mi fai sapere. Sì, è logico che prima devo guardare il messaggio. Un attimo, sto cambiando la cazzo, vediamo un po' come va con le piccoline. Gingo, come mi stai ascoltando di radio? Va bene, Radio 5, ma si è trovato l'altro analisi? Ehi, solo che l'ho girata, devo essere, non disturbo più perché l'ho girata, per me, siccome ho messo un antennino fuori dalla finestra per ascoltare col vice Vittorio, allora ho girato il tubo e quindi ho girato il radiale, deve essere, non disturbo più. Con 4 watt, i watt dell'apparecchio sono, boom. Va benissimo. Infatti non mi conviene, più di chi sono, lo sai che disturbo torna, no, non va bene. Ok. Lascia i watt normali, fatto un po' di watt in meno, ma più sicuro. Infatti non lo posso neanche aprire e abbassarlo ancora di più perché è omologato questo, se no perdo l'omologazione. Infatti sembra che vada bene così. Ma intanto stai usando la 27. Paro, qual era quest'altra capsula? No, faccia giù più. Questa è una di quelle piccoline, classiche dei microfoni, però ho dovuto mettere il processore, se no non spinge. È bella, bella chiara. Ma che va bene, Luca, questa qui va bene. Va bene tutte e due. E così lo rimette sul tappo. Claudio! Ciao Claudio! Hola! L'altra spingeva di più però, vero Mano? Sì, l'altra era un po' più squillante, però va bene anche questo. Ce li avevo di quelle verdi anche, avanza, vedete, che ho messo quella classica marroncina, faccio certo quella verde. Comunque questa è Chiara, è di lusso, è Luca. Maga Rugussi invece. Milano 34, aspetta un attimo che saldo proprio questa verde. Prova. Che dicevano che quelle verdi erano meglio. E i più furti mi hanno detto che uscivano quelle verdi. Un attimo prendo questa, eh. Sì. In che situazione che... quindi 11 giorni alla verna ero io all'ospedale a Parigi. Mi posso immaginare. A me è cazzo 2 giorni e mi hanno dato un calcio in culo fuori dalle balle. Anche io che ho la lascia di buttarsi. Oh, sono bravi qua dove mi hanno operato a me, sono bravo davvero. Infatti mi faccio operare, torna lì, mi opera quello che ha operato la colicisi, mi operano l'ITES. Ma chi ti ha operato? Dottor Balestra. Uno di Nuaru è, era a Nuaru Isu e ce n'è giunta a Sassari. Non lo conosco. E stavo bene anche prima, solo che stavo temendo, perché c'avevo i calcoli alla colicisi, se mi si infiammava tornava il pancreas, erano casini brutti, non è poi morì da ghissu. Cosa ti volevo dire? E poi il pancreas, quando ho avuto la pancreatite, anche il diabete mi è venuto. Dai, tu. E cosa vuoi, ma 4 insuline al giorno, adesso ne sto facendo 3, anzi me le voleva togliere tutte perché ce le ho abbastanza in regola e darmi le pastiglie, ma non ho voluto io, sai che da voi, no, secondo come va adesso, decido se farmi dare le pastiglie, perché me le voleva togliere tutte tranne quella della notte la riviva a Roma stessa. Quella di cena me l'ha tolta e mi ha dato la pastiglia al posto dell'insulina, capito? Ma stai facendo le punture tu? E allora, sto facendo 3 punture al giorno più una pastiglia. Mamma mia. E prima stavo facendo 4 di punture. E poi ne prendo poca io di insulina perché a me non mi sale tanto, capito? E ce l'ho sempre regolare, da quando sono andato sempre contento alla diabetologa. Capito. Sono la pizza, Luca, sì. Ma qua è già fatto già lì. E sono uscito stamattina lo stesso, per vedere se riuscivo a farmi la prostatite nuova, perché quella che ho me l'hanno clonata e me l'hanno curato tutti i retinati a 30 argonti. Visto là, e per quello non posso comprare niente su internet, ma che sono motivi, perché se metto i soldi me li rubano. Ma io già la faccio distruggere quella lì e me ne faccio fare una nuova adesso. Così solo che non si può entrare, verrai in pinta pura, sia in via Mogino che in via 25 aprile. Addirittura in via 25 aprile mi ha fatto posteggiare potevi, perché c'erano dei lavori lì ed era di tutta la rana. A fanculo. Intanto però se ne butta cura a terra, un mito gobbi di tutta l'economia, di tutta l'Italia sta andando a fanguarla. Chissà le aziende che chiuderanno, poverini, e quelli che butteranno fuori in strada. Perché intanto c'è molta gente che non, anche se sono bloccati i licenziamenti, sono licenziati Roma stessi, sono a caldo. Sta diventando uno schifo, tutto chiuso, ma la RAI è già dato i sussidi se continuiamo così. E in più quel criminale di Renzi, cazzo, ne ha fatto scendere il governo, hai visto tutto il casino che sta succedendo? Che si ammazza di tutti i gatti, cazzo, tanto di una massa di mangiazione di tutti i gatti. E allora, che in Italia ci vuole un governo tecnico, no, no, chi si tronzi, chi non sa ne manco un di casa in Gaza. Senza misura, magna e bu. Ma lo sai perché non siamo andati alle elezioni? Perché sennò perdono 360.000 euro. Se finiscono la legislatura li prendono, se non la finiscono non li pigliano, fanno pigli chi ci rinà, allora cazzo, quasi mi dirà di là chi ci doccia. E infatti siamo, guarda, a culaterra veramente. Io sto pensando a questi poveri ragazzi che hanno perso un'attività, una cosa, e non puoi li vasi in Isarra, a chi li vasi in Isarra? Se uno non travaglia, non incaccia e deve pagare i dazi, boh, non lo so io come si cazzo di vasi. Non si può fare qualcosa. Ma ti mandano così questo, chi su è? L'attività ci rimetti tutto. Tu non hai ancora compreso che uno che si buona con tu equivale a metterci nei guai. Infatti. Oh yeah, facciamo vedere a conti, cura a noi. Grazie a tu, ciao Maro. Com'è quest'altra? Questa vabbè è sempre una di quelle marroni perché con la verde che ho non funziona. Quella è un po' più a lungo. Se è meglio o peggio dell'altra, marrone sempre. No, quella va bene anche questa. Anche per me, è chiara, bella. E allora li lascio questa, così posso rimetterli in suo coperchio, che è brutto così. La lascio allo stato che va bene, ma la lascio in questo senso lì. Eia. Va bene, guarda lì. Bene, grazie a tanto. Eia. Stai andando bene lui, a tutti di Nisara, la Vienna Re, che adesso è chiara la radio, bella comprensibile. Beh, cosa stai usando? Questo è sempre SB con la capsula piccolina. Cosa vuoi? A quanto ce l'hai? Allora, compressore inserito, Mikey Game Barriga out. Ah, va bene. Cosa vuoi di più? Lucano? Ma l'altra spingeva molto di più, infatti non potevo manco attaccare il compressore. Beh, stacca il processore, va bene. Se stacca il processore, muore la radio, secondo me. Allora lì il circuitino, boh, non lo so, ma non si può aumentare niente, cioè no, non funziona il potenziometro, la moneta ce l'hai. Il potenziometro non è attivato, perché il suo circuitino l'ho dovuto eliminare, capito? Ci ho messo quell'altro di circuitino, però non mi sta funzionando l'alimentazione di quel circuitino. Capito? Non mi sta funzionando l'alimentazione. Allora devi metterti a posto l'alimentazione del circuitino. Fare andare bene il circuitino e poi lo vedi come ti bomba. Inutile che lo devi così. Lo devi fare bene perché la capsula va bene. Ha una bella modulazione. Il problema è che spinge poco, però adesso spinge un po', meglio dell'altra. Perché non essendo alimentato, capito? Fai qualcosa, alimenta questo cazzo di circuitino, cioè ma è possibile non si può alimentare? Metti in una batteria piccolina, salda due fili, da una parte all'altra piccolina, non lo so, falle una sede, inventati qualcosa, cazzo sia Archimede tu, e non riesci a mettere a posto un circuitino, alimentare un circuitino. Beh. Abbiamo già fatto le prove ieri anticontinuo. Provato con la batteria da 9, perché questo funziona a minimo 9 volt. Provato anche a 12, non va, è come che non è collegata la batteria, capito, l'alimentazione. Poi c'ha tutto queste resistenze qua piccole, capite SMD, non si comprende, perché l'alimentazione sta passando. Lui, io non sono bravo in materia, non so cosa dirti, però mi sembra strano che non si riesca a alimentare un circuitino di preamplificazione. So che sono molto semplici anche da fare, quindi non lo so. Devi cercare di alimentare il circuitino, deve essere preamplificato col microfono, la capsula va bene. Se alimenti il circuito, allora sicuramente cambia qualcosa. Però invece hai visto quando metto quella del citofono? Boh, allucinante. Quella del citofono sono capsule così, capito, però lì sta spingendo la capsula funziona, però se l'amplificato è come che sia un microfono normale, devi cercare di amplificarlo, non so cosa dirti, la capsula va bene. L'alimentazione è tutta a posto, collegata, però non sta viaggiando. C'è qualcosa di interrotto forse. Non lo saggio. Io me la che non ho giocato da noi, perché sai, sono talmente saldature attaccate che è una cosa allucinante, la lente di ingrandimento. Può darsi pure che va tutto danno tu e controlla bene lui. Se vuoi che quell'SB esca bene, guarda, io l'ho avuto, sono dei microfoni eccezionali. Se vuoi che funzioni bene, devi alimentare il circuitino, se no cuscino andava bene. E la dovevo lasciare come era originale, il circuitino invece l'avevo fatto modificare, capito, per la radio, e sono stati tutti i componenti, così che non si può, solo chi l'ha fatto lo può ripristinare il circuitino. Vabbè, chi l'ha fatto oramai non te lo fa più. Sì, infatti, per quello ho messo quest'altro, però deve essere fatto da lui. E io, vabbè, sono da sacchi di amminionarsi. Basta la luci, se abbi le luci. Ma infatti. Non ce l'hai il microfono per le 7.06, usa di Nafutti. No, oh, in vendita, vendilo uscì, caro uovo, si arrangia. Che be. Va bene, aspetta un secondo, arrivo subito. E così è, caro Luca, non lo so, fai, inventati qualcosa e vedrai che riesci ad alimentarlo quei circuiti, perché va bene, va benissimo alla grande. Che tragedia. Non lo so, non lo so che cosa gli ha preso. Abbiamo fatto le prove ieri, continuo, sia con la batteria, con l'alimentazione, niente. Come che non gliela stai collegando? Capito? Allora, c'è qualche errore, perché se tu vai per dire la fusa, ti copri l'aggancio delle 9 volts, no? Gli agganci e la batteria, che poi ci sta anche dentro, la batteria, perché ci sta. Alimenti, riesci ad alimentare bene quel circuitino, sono sicuro che l'amplificazione c'è, anche la timbrica c'è, perché è abbastanza corposa la modulazione, solo che non spinge, capito? Perché no? È come che stia usando un microfono normale, e infatti ho visto che stacchi e sembra un microfono normale quando togli il compressore. Stai usando un microfono normale col compressore inserito, non stai usando un preamplificato, capito? Perché non c'è alimentazione nel circuito. No, è già collegato qua l'attacco della batteria, già fa tutto quanto, capito? Ho collegato anche esternamente, perché può funzionare anche a 12. La corrente c'è, entra, però secondo me non sta viaggiando nel circuito. Quello è, sicuramente non sta viaggiando nel circuito, no? Controlla Luca, cioè già le sai fare queste cose, cioè io già devo dire che non sono Guvalli, tu le sai fare, controlla bene, seguiti bene tutti i fili del circuitino, quei trimerini, se sono collegati al posto giusto, se, insomma controllati tutto bene, perché deve entrare l'alimentazione lì, capito? Vediamo un po' se è rientrato dal lavoro Massimiliano Bulldozer. Attento Massimino, la spunta, ci sei, cambio. Non c'è ancora, dove c'è che si sta lavando la ciolla? Io un po' che non lo sento, Massimiliano. Cazzo, esci, dico di Manzano, rientra dal lavoro alle le 6 di sera, sono già le 6 e mezza, forse sia già rientrato. Tu vai si viaggia a Ghana, buttate tutta la vita in questa macchina, per carità di Dio. Non è che ne ha molta voglia, lui entra qualche volta a fine settimana, capito? Ma se a casa magari già si fa sentire dopo. Infatti. E tutti gli altri persi ci sono. Ah boh, alle mani ti hanno scritto un'altra passata di bottate che non ti dico io lui. Ho spento tutto, l'ho spento, non voglio sapere. Ho spento tutto e messo andato nel salone a guardarmi la TV. Di solito stavo entrando dopo cena, manco dopo cena sono entrato, non mi interessa tanto. Sta cominciando un po' a stufarmi questa cosa, capito? Siamo quattro iati, ancora bisogno importanti. Ma poi con questo fischio allucinante, ma bagosa, bagosa non lo so. E quello è un baracchino vintage che io so anche di che marca è, capito? Perché hanno riconosciuto il bip, quindi io sono già informato che cosa usa. È un baracchino vintage con il bip a cicalino tipo Tokai 524, ma non è un Tokai 524, capito? È un altro tipo di radio. Si mette a disturbare, subito io non posso stare ancora a bisticciare con la gente, io ho già aggiungato altre cose per starmene qua tranquilla e serena a fare due chiacchiere, già, quindi è troppo quello che sto facendo, in più rompono anche le palle con la portante, rompono le palle anche a me in altre cose, quindi lascia aperto, alla fin fine, un baracchino. E ne avanza a vari buchi. Infatti, infatti. La gente un attimo mi pongo la batteria a carica da 9 volte. Che se io mi tocca attaccarli da 12, uff, aspetta. Ia, ia. C'è una cura, no? Oi, Massimi, ti ho chiamato adesso, a ver se sei rientrato dal trabacco. E allora? Qua, ciao, buonasera. Non mi stavo che mi fa la luce, ma spero che facciamo, no? Ehi, cappa di orologio, e io mi qua so. Ho già acceso la TV, mi sto guardando gli Avengers, un po' di cose, di campagna, di roba così. E facendo andare questo barracchino, se va bene, mi, se no ce lo buttiamo nella mondetta. La nostra abituale, ma la nostra non muove qua, sì, anche io sono andato a Rionghero, sono tre bieni io, in questo campo, ho messo il volume, vado adesso la televisione qua, l'altra piccolina me l'ho messa a canalaretta, la vita la dopo manda, non mi piaceva la televisione a canalaretta. E anch'io, c'avevo prima quella mi far grande, l'ho tolto, me l'avevo messo qua, poi c'è farà dallo fumo e anche adesso c'ho una piccolina qua. E in camera a letto lo stesso c'era un'altra piccolina. Nelle stanze a letto sono piccole, nel salone è grande, se no prende troppo posto, capito? E allora, tutto bene, tutto bene. Sì, tutto bene, sì, qua. No, questa è il cameretto 42, questa qua non andava bene. Ricordava tutto un mezzo canale, invece il 32, il canale da letto va bene, qua ho messo il 42, vai a fare 55, giù cucina c'è 60 e vengo a fare i buchi. Fatta brioche, sì, ultima radio qua, via l'usuaio. Ia, no vabbè, abbinamento 80 più 3 così, va bene. Poi adesso ho regolato la potenza, questa radio, sta andando con 15 watt, modulati, 12 importanti, 15 modulati. Perché non avevo rosmetro, capito? Adesso già va bene. Adesso va bene, va bene. Ottimo per la truppa, no, anche tu stai arrivando bene. 9,20 con picchi positivi e radio 5 perfetta. Sì, no, sono lontano, quasi sotto braccio perché sono girato quando ero andato in visione, capito? Va giù, benissimo. No, c'è Luca che è andato a caricare le batterie da 9 volts, che non riesce ad alimentare quel circuitino. Oh mio, c'ho la 430 acceso, 140 è spento. Lo sto ascoltando a 3650 in 80 metri. Giusto per tenerlo un po' acceso. Positivo, là. Ancora voi sul circuitino, diciamo il gabbo, Luca. Ancora non ti avanzate che microfono. Mi ha mandato l'altro giorno qua, un link, secondo me è su quella radio. Mi ha detto, mi prendo sul lavoro da 108. Ma ti ho mandato uno, tanto io, ma lo so, vuol dire fiammante, no. Quello vedi, una volta regolato bene, quello secondo me è la grande. 908, ma anche il 508 c'è bene. 908 è molto grande, però se c'hai spazio regolato bene, noi mi pare l'avevamo regolato quando avevi 657, cos'era quello grande tuo? Quello grande mio c'avevo il coso, il... ma... come si chiamava lì do... l'MD100, quello che avevo sul... 667, com'era quella? 767. Su 767 non avevamo messo la V908. No, la V908 l'avevamo messo sul 75... come ti chiama che doveva accadere? Lì. 757. Sul 757. Sicuro avevamo messo lì. Sì, su quello grande avevamo messo l'altro. Ma andava bene, andava veramente bene, una bella regolazione, eravamo stati un bel po' prima di trovare una soluzione, però alla fin fine usciva molto bene. Non usciva bene, sì, se l'aveva già avuto me l'aveva lasciato già a raio, non parete. Il cazzo era grande quanto il Galaxy, mi scegnava ragione io. Ed era 220, era molto bella quadribanda, andava molto bene. Faceva le V, le U, 50, c'aveva, 200 watt, accordato l'automatico, e aveva, bella. Lo so, purtroppo poi ci stufiamo delle cose le diamo, e io la stessa cosa ho fatto con 940, era nuova, bellissima, proprio in ordine, perfetta, mi aveva cambiato, si era bruciata la lampadina del grafico, l'aveva fatta, chi sei tu, ma era perfetta, ma era troppo grande, enorme, non ci stava niente, allora avevo anche poco spazio, e quindi l'avevo venduta. E quelle sono radio che bisogna tenere, perché sono radio che durano del tempo, capito? Sono i Caterpillar della Kenwood 940, il muletto della Kenwood, come quella lì era il muletto della Yaesh. Non hanno fatto più radio così. Oh, claro, sai chi mi ha chiamato oggi? Che ricordi quel tipo? Che ricordi quel 440 che avevo preso a Palermo? Con l'amici Sassato, va bene, che sono dato qua. Ehi, quello che avevi portato qua. Che pure io lo volevo restituire, veramente. Ma... mi ha chiamato il tipo, uno di Oristano che l'aveva là. Ci ha fatto tutta la linea, non ha dato la foto qua. E smalattamente l'ha anche cancellata. Su, ti vedo che è bello, cazzo, nuovo, sarà fatto, sarà tutto riverniciato. La linea completa io l'ho avuta, non del 140, del C80, avevo il C80, avevo il PS50, il PS430, avevo il C80, la T250 e la colonnina esterna, è una bella linea. Una volta che hai la T250 vai in capo al mondo, perché come schiacci la portante lui viaggia, accorda e via. Poi c'è lo strumento, c'è il commutatore d'antenna, non mi ha trovato il metro commutatore, capito? C'è tutto, è completo quel pezzo lì. Ma se lo vuoi magari 220, 250. Sì, vabbè, grazie, va bene, cioè. Mi hanno dato la foto, mi ha chiamato, dice contento, adesso ho già qualche anno che avevo dato. Ho detto, funziona sempre alla grande, mi ha detto. È quello che avevo preso io da Mr. Luca, no? Non ho quanti anni è che l'ho venduto, un po', un bel po' adesso, ed è sempre perfetto, funzionante. Ci siamo visti da poco, era Sassari quello che ce l'ha, e mi ha detto, infatti ho detto, vabbè, a me lo restituisci pure, nuovamente lascia restare i due. E mai, Fabio, non è nato, non ce l'ha più con la macchina rossa. Non ce l'ha più? Come mai? La rossa ce l'ha più recente ed è bianca. Non lo sapevo, figurati tu, non lo sapevo assolutamente. Non me l'aveva detto niente neanche Gigi, perché un giorno gli ho chiesto. Ma tu eri qualche volta già passa qui quando lo sta consegnando. Però non mi ha detto niente, io ero rimasto sempre a quella là. No, no, no, fatta fuori quella. E vabbè, ci sono via, di nuovo tu lì, sono qua. Mi hanno carregato di cosa. Oh, poi Luca, rientrato sì. Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Com'è? Mi stavo già ascoltando la prima. C'è che facciamo da Claudio che ti lavava la schiena. Cosa c'è? Ti lavava la schiena Claudio. Vabbè, c'ha poche unghie. Io avrei passato la di ferro. Se ti ho chiamato infatti poco fa, pensavo che ancora non eri rientrato. Invece dopo 5 minuti hai chiamato tu. No, dove è rientrato qua? Capito che loro stanno qui. Se ne sono andato giù a trovare. Capito, dai, ho giusto, guarda, sono la mamma, ho detto, brava, non mi voto la doccia. Ho acceso la radio, nel frattempo che mi stanno facendo luce, bimumba, mi stanno ascoltando, capito? Ho detto, appena mi metto in sento, devo trattare una chiacchierata, anche se non è che mi ho tanta voglia. E infatti quello ho detto a Luca. Poca gana hai quando rientri a lavorare, la riguardo Mazzano in piedi, tutto il giorno sopra quel mezzo, non è facile, no? Oggi, vabbè, oggi c'è un casino di macchine, poi un bel farlo, stanno lavorando malissimo. Capo l'America ha messo bella diluvio e tutta la ghetta aveva la prossima settimana. Lo so, ho visto il meteo, ci salviamo oggi, forse anche domani, insomma settimana siamo così e così, poi dalla prossima siamo d'ora punti a capo, e vabbè, e cosa devi fare, e cosa ci vuoi fare, avanti tu. Cazzo, correi vaffuri, bobo, aiaia. Ma questo lo facciamo, è cosa normale, cos'è questa roba? SM20, guarda, ma chi non ti rubiglia chi giù che fa un abbado? Ma no, appunto, Massimiliano, mi piace come te microfono, non è che mi piaccia tanto, questi due pulsanti che va, non è che mi piaccia tanto, ma sono prima c'è una radio. Sì, sarà meglio. Sono in cerca, adesso sto aspettando un paio di risposte. Ma già te l'ho spiegato, no? Quando già te l'ho detto, quindi non trovo una cosa superiore che da voi a usare, no? Capagaba. Ma non è il problema di tornare indietro, ragazzi, è il problema di avere affidabilità, cioè... Anche a me è piaciuto tantissimo, tantissimo dare la mia, però alla fin fine, quando inizi a farti un giro di conti è una cosa allucinante, c'è radio, non la potevo più. Io mi ricordo quando lavoravo a Cagliari, il 140 l'avevo staccato per non avere problemi di coso, l'avevo staccato proprio, tolto, staccato l'alimentazione, tutto messo dentro l'armadio. E stavo dal lunedì al venerdì a Cagliari, rientravo il venerdì sera, quindi non è che mi dedicavo molto all'aria, qualche volta la prendevo, l'attaccavo, sempre in perfetto. C'è stato un periodo, l'ho lasciata 2 mesi dentro l'armadio, 2 mesi. Quando sono tornato l'ho presa, l'ho attaccata, provo a farlo con 44, vedi cosa ti dici. Vabbè, io già l'ho fatto, però l'hai fatta fermata 3 mesi e non c'è più nulla. Vabbè, ma perché, capito, deve essere già fatta, ma io la mia l'avevo anche un po' trascurata e quindi 3 volte l'avevo mandata a a fare i controlli. Tre volte, tutte e tre volte mi è costato quattrini, tranne una volta che è stata fatta qua a Sassa. Ma le altre volte mazzate a 220 euro, quindi capito? Non c'è niente da fare. Sul 430 avrà giù 10 anni, 10 anni, sì, è vero che la devo mandare, perché la devo mandare, sono già d'accordo col tecnico. Appena si libera di questi lavori sta finendo, gliela mando, come ti ho detto. Però riparazione non ne ha mai avuto, capito? È un muletto il 430. È stato cambiato il display qua a Sassari e basta, poi sì, c'ha dei falsi contratti, ogni tanto devi cudirgli un colpettino, ma sono stronzate. Una volta che la mandi le fai tutte le saldature nuove, dei circuiti stampati, le dai una bella lineatina, se ci sono spinettine da cambiare gliele cambi, tutte stronzate, però cazzo non ti daga mai a peli. Allora questo dipende anche dalla radio, quanto la usi, come la usi, dipende anche da quello. Avanti, lui. Se avessi allontanato, sì, ma si è a posto, guarda, a me mi ha dato tantissime soddisfazioni, tante, però poi alla fine ho detto basta, boh. Io la cultura e l'esperienza me la sono fatta con quella radio, capito? Vedi, quella che hai dato tu, quella è nuova, eccetera, è diverso, ma quando già inizi a avere un sacco di anni, allora o le fai le cose che c'è da fare, se no è sempre un casino. Vabbè, sto sempre controllando, sì, che sta andando bene. Va bene che va bene, quindi Gesù sopra, guardandoti la TV. Sì, mi sto guardando, dico che è vero, sono farine, trinciato, roba così, va, la farina, va, mi sto guardando il tuo programma. E anch'io la sera metto quella qua in stanza, tanto non ve altro. Poi più tardi cambio, metto un po' di sport, a Sport Italia, vediamo un po'. E poi alle 8:30 metto a Rai 2 e c'è la partita. E ci guardiamo un po' di sport, già va bene. Quindi Massimi, ti piace questo abbinamento Galaxy, là? Sì, ottima radio qua, bella tutto veramente, bella corposa, bella... Tutto mi sente. Non ha niente anche invidiare a una radio professionale. Quindi ti sto dicendo, un ottimo abbinamento. KK, aspetta che ha chiamato Fortunato, mi è sembrato. Dove sei? Fortuna, non ti sento manco io, figurati gli altri. Dove sei? Cappa, allora esci dalla zona d'ombra e poi mi richiami, ok? Così ti sente anche Massimiliano. Vai Massimi. No, lo sento io, dov'è? Io nella cementeria, se lì non lo sento, ormai quella zona è proprio negativa. No, è la cimenteria, no? Se è la cimenteria già mi via, non ti preoccupare. Deve essere ancora distante, parecchio. Dove sei, Fortuna? No, non lo sento neanche io, figurati. Assolutamente no. Sotto la cimenteria mi arriva 9:20, 9:30, non c'è problema. Segnale 2-3, figurati. E Ghita è abbastanza selettiva alla radio. Sì, Massimiliano, ma guarda, anche con l'MB più 5 andava benissimo e va benissimo. Però il più 3 le dà quel tocco più professionale, secondo me, no? Sì, però ecco, Claudio, sto guardando, ogni tanto lo fa, c'hai un picco negativo. Ah, sai quando lo fa? Quando fischia, guarda. Non ho capito perché. No, non lo faccio quando fischia, lo fa anche nel parlato, ti stavo guardando apposta. Non lo fa sempre, ogni tanto dà un picco negativo. Non lo so, qua lo smitter va in positivo, c'è ancora lo strumento agganciato, è sempre positivo, da 12 watt a 15 modulati, non lo so Massimiliano. PL sono agganciati bene, tutto a posto. È importante. Vabbè, è finito hai di giocare. Ma qual è sempre lo stesso segnale? 9:30 è qua, ma non ha giocato più, già finito di giocare. Oh, oggi vuol dire il ciccalino non lo sta usando. Deve essere se farà dare un fumo questo Sommerkamp che usa col tastino, col CV doppio, capito? Beh, vabbè, non lo so che ti dica. Pizzino è un gabbo di fumo. Io Luca, dove sei? Perché Luca va, devo abbassare a voi i pari, boh. Non so cosa sta facendo, se non sta mettendo a posto quel microfono, l'hanno chiamato, boh, vediamo come è fortunato. Attento Lacchi, non arrivino. No, Lacchi io lo solito. No, e beh, se non arriva a me deve essere ancora lontano. Mi ha chiamato poco fa, se non era disceso il Bonorva, non so, deve stare rientrando da Cagliari. Ehi, Claudio. Oi. Sempre uguale, vero? Cosa? Ho detto sempre uguale. No, è sempre uguale cosa? La radio c'è, va bene. Cosa stai usando? SBS. No, vabbè. Ma non ti guardi, vabbè, radio, vai. Bassa è, non è che è amplificata, io l'ho già detto, non amplifica. Ma è 31 da Murlana, va bene. Abbiamo cambiato la capsula. Niuna che spinge un bel Massimiliano, non ci sta dentro il microfono. Cosa, Olu? Che niuna che spinge un bel, ma non ci sta dentro il microfono. Ma che capsula è? Ah, capsula di citofono. Ascolta, quello piccolino vanno bene, quello tipo MB più 5, più 4. Quella c'è adesso c'è quella lì. E cosa c'è hai? Quella con lo sfondo verde o quella con lo sfondo marrone? No, marrone. Quella verde ne avevo una, ma deve essere non va, perché ho provato a collegarla e non esce di radio. Ma la verde finiamo di più, Aspetta che io ne ho una bustina piena di quelle lì, aspetta se la trovo verde. Ma anch'io ne avevo, boh. Ah, c'è potente anche i barattoli. Una di quelle devi mettere, se metti una di quelle vedrai col microfono. Però, ripeto, rimane sempre la modulazione, magari te la fa buona, spingi il compressore, però stai sempre usando un microfono normale, ma il compressore non si può mettere a 10. Aspetta che mi sto cercando questa cosa, aspetta. Io sono qua, no, l'ho detto a Luca se si può mettere la manetta al compressore, capito? Buonasera a todos, ciao Franco, ciao, buonasera. Io ti ascolto, non c'è problema, ciao anche a Gianni. Allora, guarda lui, maggio, 2, 4, 6, c'ho 7 capsule, tutte con lo sfondo marrone. Aspetta un attimo, vado a controllare la tappata, forse ne ho una verde, aspetta. Gappa gappa, chi è entrato avanti? California da questa. Ciao Fra, buonasera, ben ascoltato, ma mi sembra che c'è anche Gianni avanti. Sì, ciao Claudio. Mi sembra un po' saturo, Fra. Saturo? Aspetta qua faccio allora. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5. Hai anche alternata sotto il fondo. Alternata pure, addirittura. Lasciami lì, dai. E adesso com'è? 1, 2, 3. Che fa passaggio lupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sappiamo 10 barra di 1, 2. Adesso va meglio. Vada, che bene va. Alla grande, non c'è problema. E Claudio, aspetta qua. Già, adesso c'è il mio Claudio, c'è. Anche in K. E io ho 3 watt, sono riuscito a comprare 3 watt. Però per qua non ho dicendo che mi trattava adesso. Dove sei tu? Dove sono stato? Vabbè, io sto usando un altro fatto meglio, sto usando l'Intec, la faccia del bike. Cavo nava. Avanti Claudio. KK, e io Fra sto andando sempre col Saturneco e i watt sono 8 modulati 12. Capito? L'ho messo nuovamente come era prima, non mi va di tirarlo di più. 8 watt modulati 12, già va bene, signora radio, microfono interno più 3. Quella radio qua, dici sotto bene, adesso no, lascia stare così. No, stamattina stavo parlando con Franco di Sosso e mi ha detto che avessi avuto molto lo bipi e lo gappa. E tu non ero gappa, chi sono che lo garacci? Lo sa gappa. E si conferma. Va bene. Ottimo per la truppa. Non c'è problema. Vediamo un po' se Massimiliano è rientrato. Massimiliano. Io qua sono là, cambiato anche il radio. E perché? Così, giusto per, capito? Giusto per farla andare? Sì, vedi, di nuovo che grazie, a me già lo sai. Un pulsantino e tu baghettare. Una foto subito e siamo andendi. Claro, quando gli impianti sono fatti bene, è vero, devi stare attaccando PL, non PL. si gira il commutatore, agganci uno, si gira e agganci l'altro. È una cosa bella. Avanti, Califfo. Ciao Massimiliano, buonasera, mi ascolti? Ti ascolto con le orecchie, sì, certo che ti ascolto. 5-7 il tuo segnale a radio, non ti posso dare 5, ma ti ascolto, dai. Anche se mi ho lavato le orecchie poco fa. Dai, dai, se ti guarda va bene, va bene, questa 2 watt, questa non sale di più. Avanti, doppio. Sì, io sto scendo con 3 watt e mezzo lo stesso. Questo qua sta solo in banco. Non l'ho mai alzato, l'ho lasciata sempre così in bassa come me l'hanno venduta. Ma piace un'ora di una tasca. Anche io? Non so cosa dire. Non so da che cosa dipenda. Voi lo sentite? Sì, leggero, leggero, già c'è. Sì, e chi lo sa, è la di Vicci. Vuoi sapere una cosa? C'è l'alimentatore dell'alimentatore? No, piace la pala di alimentatore, da 35 ampere. Io sono quella è la ventola dell'alimentatore che ha piatto. Però che pulita, l'ho smontato, pulita con l'aria. Quindi ho messo anche un po' di spray per contatti all'interno, per farla girare bene. Niente da fare, un po' lo fa sempre. Che cosa è? Dei sì. Io ho ripreso uno da 15, uno da Stacatepo. Da fare un cingaricato, come si fa? E quanto l'ha pagato? Una che paga, abbiamo fatto 5. Io da 50 anni l'ho pagato 20 euro. Ma California l'ha rifottito. 20 euro l'ho pagato, fra. E abbiamo messo il tastino sopra. Poi io ho messo tutti i fili interi, quando voglio attaccare c'è tutte le parti di fuori che posso attaccare i fili. E allora andrò a dire se vai la muraglia, quello che c'è di fronte al mondo convenienza, 50 ampere costa 28 euro. E allora mi hanno dato una scimigliata. Vabbè, là. Poi ti diventi idrata in là. Avanti. Cosa? A Claudio ho detto vabbè. Claudio non riprende. Vabbè io no, l'ho preso da un amico che ne ha preso uno stock di questi alimentatori. Ne ha preso da 35 ampere, ne ha preso da 50, eccetera. Un po' visti, uno scatolone tutto pieno. Sei pieno di alimentatori allora? Non io no, ne ha presi un amico. Se mi interessava una l'ho presa. Ok, no, va bene. Vediamo un po' se vuole riprendere il flipper. Kappa, da, va bene. Avanti già che ho che morto lo cose, lo serpente, no, che aspetta. Qua di tutto già di calentatori, quelli russi. Quelli che ci hanno trasformato le vette. Non so, come quello che io ho da parte, quello lì te li dà pieni pieni, 10 ampere. Da quello va per cosa? Non c'è da sicuramente, ormai, quando me l'hai dato, insomma. 10 ampere. Ciao, buonasera, Pietro. Ciao, Bruno, buonasera. Ci piace la pescosa, ci guarda tu. Là, vuoi credi? Ma ne ascoltate. Ehi, scusate, mi sono allontanato un secondo. Chi è? Ok. Hola. Ciao, stai uscendo, non si vedeva, dimmi. No, ho detto che c'era Bruno, va, è stato Bruno. Bruno, l'ho sentito io. Sono anche rilanciato, non è ripreso, sicuramente ti sei allontanato, va. Io intanto mi ha chiamato Anna, sono andato un attimo al salone. Ok, vai Gianni. Gianni deve essere al telefono, non l'ho rilanciato, è tanto al telefono, sono le 7:05, deve essere al telefono. Vai Galifos. Con questa meglio mi ascolti. La di positiva, questa va bene, cambio. Aspetta, mi pare per buone nocchie, ecco, aspetta, indica pure. Ora. Aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova. Aspetta, mettiamo anche il bip. Ora. Il 2-0, serpente. E allora, chi c'è il bitone? Sono a stare in varia. Ma potenza minima, sì. Sì, a minimo, qua. Ah, bella radio, c'è. Bella radio. Lo sai che c'è bene con il microfono normale e appena di ecco? Appena gli hanno messo proprio un pelino, va. No, ma il bello sai cos'è, qua? Che c'ha il parlascolta e non innesca niente, capito? Nulla proprio, e lo ti senti alla grande. Kappa. Però mi ascolti così con un pelino di ecco, o fra. 5-9, perché qua? Hanno bene a tutti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio a cola. Sì, ti ascolto bene, là. Vediamo un po', Bruno. sto muovendo adesso. Cosa ha detto? Non ho sentito. Oh, ma a me mi fa aver capito che movimento, non so. No, adesso già ti sento, ciao, buonasera. Sentito lei, Massimiliano? Sì, sì, sì, adesso l'ho sentito. Santiago 8, sì, qua. Già va bene, dai. Claudio, da te. Da me sei 9, quasi 15. Già va bene, già. Questo sto portando questa la 68. Chiamata con un amico di qua vicino, lo stavo provando, lo stavo scendo. 10 watt da qua. Ma c'è una bella radio però, No, ma ci vediamo. E la ceruria è dove la 68 che brucia il capo? 68 con l'eco è questo, 10 gatti modulati. Ehi, troppo bene si conosce quell'eco di quella radio. Io la conosco bene quella radio, già lo sai. Ecco chi non sei. Sotto casa tua, non sei a casa tua. Io, guarda a vedere il segnale, 1-3-4. Sotto casa tua. E lei quanto ti sta arrivando anche sotto casa mia? 7-8 sotto casa. Sta vicino. Sto usando quella parete là, questo sembra strano che stai arrivando a 7-8 e tu sei sotto casa. Mi ha fatto scala, sì. Ecco, adesso cominciamo a parlare. Sto facendo una moto bianchina, tu ne sei tutto meglio. Ora. Oh, da una sola, verso le qui, c'è là. Oh, fra, adesso meglio ti sto arrivando. Ma adesso sono le 10 qua, la Sibiria. Ma sta di rivaria. Mettiti lì, Bru, così se c'è la portante la pizzichi subito. Che ci abbiamo la portante da quella zona tutte le sere. Va bene, va bene. No, già stai arrivando, Santiago 9, sì, Radio 5. Attento, Luca Flipper. Oh, fra, dimmi una civiglia. Prendi virato il telefonino. Telefonino? Sì, ho detto, dove ce l'ha il telefonino? Sicuramente ce l'ho qui. Allora prendilo che sta piovendo. Portalo dentro. KK è positivo, dai, flippere. Che radio, grazie, sugar. Sì, è bello, abbiamo un microfono normale qua. Va bene, sì, ottimo. Questa, vedi, perché riesce tutta manetta, sì, perché io la manetta. KK, avanti, Bruno. Dove sei? A luna e sole. Vuoi vedere? No, luna e sole. Ah, ok, arrivi bene, Santiago 9 qua. Sono che antenna di 30 anni, ah? La ricordi la colibri, tu conosciuta la con l'arancione, Massimiliano? No, negativo, io ho conosciuto quella bianca. No, lui c'ha la colibri, quell'arancione, pesce, ce l'avevo anche io. Ma nel 75, 77, andavano molto bene, molto bene. Su Vincenzo, del fino bianco. E con Saronero c'erano la stessa macchina, aveva la Simca, quella berlina lunga, molto bella era quella macchina. Ce l'avevano tutte e due nella coda, dietro, nel parafango di dietro, ma Simone era barai, ma vedavano con tutta l'Italia. Quando le antenne vanno bene, è inutile avere un antennino piccolo e non arrivi da Ugheghiri. Io sono sempre del parere, che l'antenna vuole lunga. Ma quella lì è piccola, non pensare sia grande, ma è tipo una mini turbo. È una termale, l'antenna. Tipo una mini turbo, però è praticamente è fatta in resina e all'interno c'ha il filo di rame internamente, capito? È buona, un bel buona. Quindi alla fine diciamo che è caricata questa antenna, così è? Sono caricata però, una scheggia. Sto dicendo che...